La sera, ognuno nei pensieri propri, in giro c'è la morte. C'è chi spera in una sorpresa nel cuore della notte. La cerco nei locali più vuoti, mi spingo addirittura nel caos. Per caso poi la guardo negli occhi, ma a taglio corto con un ciao. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte è vero, i passi miei sono veloci, e a chi va lento dico ti muovi, anche se nessuno ci aspetta. Nel cuore della notte. La cerco nei locali lontani, oltre i binari di un treno in ritardo, che passa con le sue luci tristi e se ne va fischiando. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte è vero, è tardi e siamo sempre fuori. L'inverno è già alle porte, ma non dichiariamo ancora la resa. Nel buio della notte. La cerco nelle zone industriali, quelle al limite coi campi di fieno, dove mi fermo sempre a fare benzina con lo stereo acceso. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte. Andrea, chissà se si è tirata fuori da tutte le sue ombre, e suo padre quanto sangue perdeva nel cuore della notte. Ora la cerca lungo tutte le strade, ma le ferite a volte lasciano i segni. Le prometteva due ali alla schiena e poi le mise due coltelli. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte c'è un gatto, con poche vite ancora intere e i graffi delle lotte. Lui è l'unico che vede davvero nel buio della notte. Hanno appeso le sue foto sui pali e chi lo trova vince i soldi. Lui sa fuggire dai sensi di colpa e tornare dopo giorni e giorni e giorni e giorni e giorni ancora e giorni. Se un'auto non lo prende in pieno nel cuore della notte è vero, è vero. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte trema la luce gialla dei lampioni, come le voci rotte, come la mano di chi perde la presa. Nel cuore della notte. Così sulle panchine appartate ci cacciamo via dal resto del mondo, perché un amico a volte è come una chiesa, è un'ambulanza che ti corre incontro. Nel cuore della notte più nera. Nel cuore della notte stasera saremo dei supereroi o topi delle fogne. Quale sarà la nostra bandiera nel vento della notte? La cerco nelle sere dannate, quando la voce degli altri mi affoga e mi chiedo dove sia il confine tra la pace e la noia. È nel cuore della notte. E nel cuore della notte c'è un camion che sembra un albero di Natale, con calendari e luci rosse. Riparte come un giovane soldato nel buio della notte. La strada di domani è distesa e illuminandola vedrebbe i suoi cari, ma non esistono dei fari abbaglianti che arrivino così lontani. nel buio della notte. Nel cuore della notte, Andrea, chi è che ti ha tirata fuori da tutte le tue ombre? E tuo padre un ago che ti pungeva nel cuore della notte. Ora ti cerca lungo tutte le strade, ma non sa che sua figlia è cambiata, che l'auto non ha preso il gatto e il camion è tornato a casa. Nel cuore della notte, nel cuore della notte.